Vabbè, rido per non piagni, diceva quello, o qualcuno lo diceva da qualche parte, perché in fondo tante volte quando non sai da che parte guardare o di che cosa stai a parlare, alla fine pensi che sia sempre meglio riderci sopra piuttosto che disperarsi più di tanto, perché l'uomo è l'unico animale che ha veramente paura di se stesso, ma non paura perché meni, perché uccidi, perché fai le cose brutte, ma meni perché ogni volta che ti trovi di fronte alla scelta, alla grande evoluzione civile, culturale, insomma, a questo salto evolutivo, ogni volta c'è sempre qualcosa che ci frega, cioè va a tornare indietro, perché in fondo a noi tutta sta libertà, tutta sta possibilità di decidere, di scegliere, ci fa sempre tanto schifo, perché è meglio che ci pensa qualcun altro e che noi si diventi tutti un po' più stupidi. Io sono Simone e questo è il Grande Reset. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con menti aperte e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, confrontarsi con menti aperte. Il grande reset. Il grande reset. Ah, belli di casa, bentornati qui a un nuovo appuntamento con il grande reset, con questa sigla che in realtà poi alla fine mi fa pensare, ma oggi avrei dovuto o potuto anche mettere, insomma, la vecchia sigla di Buongiorno un cazzo, però vabbè, no, cerchiamo insomma di esprimere le nostre considerazioni e anche insomma di tornare, boh, non lo so ragazzi, perché è un po' un momento complicato anche mentalmente, cioè nel senso che ecco, diciamo che avremmo potuto da un certo punto di vista fare tutta una serie di discorsi legati alla motivazione che hanno le persone nel cercare di andare avanti, di provare ad avere un'evoluzione, no? Di crescere da un certo punto di vista, dall'altra parte poi alla fine ti rendi conto che ciclicamente sono sempre tutta una serie di cose che ai più indigna, però altri insomma magari stanno lì e guardano diversamente, ma parleremo anche di questo, del perché, del per come o per come lo vediamo noi. Però intanto ricordiamoci che ieri sera alle 20 c'è stata l'ultima puntata di stagione delle Orazioni della Sera, che avete sentito poc'anzi verso le 6 in replica, puntata 400, quindi insomma sarà una puntata un po' diversa dal solito. E poi ieri sera abbiamo fatto la nostra bellissima puntata commemorativa di Alvaro Vitali con Pop Corner, dove che poi alla fine non ce ne fregava più di tanto, però insomma vabbè, anche Alvaro Vitali è un pezzo di core, è un pezzo di noi. Questa sera ci sarà il Grande Reset, quindi attenzione, sì, il Grande Reset, scusate, Runtime by Night. Attenzione che il tema può essere interessante, ne possono uscire delle beautiful, veramente molto delle beautiful, se mi ricordo bene, perché magari è quella puntata dopo, però adesso non ho tantissima memoria. Mentre facciamo ancora gli auguri ad Alex Raccuglia, che ha compiuto ieri gli anni, e dato che l'altro ieri era comunque qua da noi, abbiamo passato del tempo insieme, abbiamo registrato uno speciale live, abbiamo fatto una live che poi l'abbiamo registrata, dove abbiamo parlato di cose un po' così, un po' random, insomma sempre basate sul discorso dell'intelligenza artificiale, e presto uscirà come puntata feed special all'interno del suo programma Techno Pills. Noi invece poi l'ascolteremo subito dopo questo episodio. Potete tranquillamente rimanere qui sulla radio ed ascoltarvi la trasmissione, ma adesso io direi che abbiamo già ciancischiato abbastanza, abbiamo, diciamo, da un certo punto di vista espresso alcuni saluti, abbiamo dato insomma il via a quello che era questa nuova puntata di questo nuovo venerdì, e quindi io direi partiamo con un primo brano e poi chiaramente ci tuffiamo un po' su quello che è il vivo della Questia, la Questia roba seria, ragazzi. Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi, scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Stavolta è vero, c'è il palinsesto, poi lo dovremmo sistemare perché chiaramente l'abbiamo praticamente messo in onda, cioè l'abbiamo messo in linea praticamente adesso che è finita la grande stagione di Runtime Radio, vabbè, ma poi piano piano si sistema tutto. Comunque volevo dire che se io fossi... io sono uno nato negli anni 70, no? Cresciuto negli anni 80, ma se io a un certo punto nella mia vita, tipo a 20 anni, fossi andato in coma, no? Così cioè, ci sono diverse sketch, insomma, c'era pure alla TV delle ragazze, non so se vi ricordate, insomma, il comunista che era andato in coma e a un certo punto si svegliava, no? E si svegliava negli anni 90 lui, no? E si ritrovava abbastanza spaesato, ma insomma, è anche normale trovarsi, diciamo, spaesati dopo che sei stato magari 10-20 anni in coma. Però la domanda è: pensa se si svegliava oggi, no? Perché poi il discorso è che partendo più di là del tempo è peggio, ma secondo me l'impatto non sarebbe neanche tecnologico. Non sarebbe neanche, diciamo, comportamentale, perché chiaramente sarebbero delle differenze, delle difficoltà, no? Però io penso che se io mi fossi svegliato oggi, dopo 25 anni, 30, facciamo 30 anni di coma, no? Sono stato in coma per 30 anni, mi sveglio e mi guardo in giro e mi metto le mani nei capelli. Che cazzo è successo? Cioè, ma che è successo qua? Che è esplosa una bomba di stupidimento, cioè hanno praticamente bombardato le città con delle bombe, perché poi tu ovviamente esci dal coma, vedi, sei nel futuro, quindi immagini che sto futuro che ancora tu non conosci bene ci siano delle tecnologie a te ignote, che è un po' tipo, non so se vi ricordate il videogioco Zack McCracken and Alien Mindbender, che praticamente questi alieni venivano sulla Terra e diventavano praticamente, prendevano il controllo delle compagnie telefoniche. E quindi tu, quando andavi sotto casa al negozio della compagnia telefonica a pagare le bollette, in realtà le pagavi a sti alieni che sotto, insomma, nelle segrete della compagnia telefonica c'aveva questo macchinario che mandava questo impercettibile segnale su tutta la rete mondiale e che rendeva la gente sempre più stupida. Cioè, infatti era figo perché nel gioco, che tu avevi i verbi per muoverti, quando venivi catturato e trattato con questo raggio, praticamente si vedevano i verbi dell'interfaccia che sparivano piano piano fino a che non riuscivi solo a fa walk praticamente, una cosa del genere. E questa, alla fine, ti svegli e dici: che cazzo è successo? Ma che gli avete fatto a tutti quanti? Che è possibile? Perché poi, gli stupidi ci sono sempre stati, gli ignoranti, quelli che magari non sono informati, però un po' si nascondevano, no? Perché poi, alla fine, di fronte comunque alle persone che facevano ragionamenti sociopolitici, critici, analitici della società, poi c'erano quelli che non erano capaci e quindi magari stavano lì, si tenevano nascosti, dicevano qualcosa al bar, tipo dietro al tavolino, dicevano quando c'era lui, no? Capito? Alla fine le stupidaggini sono sempre state, no? Però, e comunque in generale, e questo l'ho detto tante volte e continuo a dirlo e continuerò a ripeterlo, diciamo che il senso critico e comunque la capacità di leggere un po' i giornali, la politica, vabbè, erano proprio completamente un altro mondo, perché i giornali facevano i giornali, i giornalisti facevano i giornalisti, chi documentava documentava, chi era interessato si documentava, le sezioni dei partiti comunque avevano i giornali dove tu potevi andare lì nella bacheca a leggere magari le ultime notizie del giornale, magari del partito, però poi che ci trovavi anche gli altri giornali, e quindi poi alla fine c'era sempre questo aggregazione anche di discussione, dove la gente comunque si esercitava poi in qualche maniera involontariamente, era un esercizio critico, analitico di quella che era la società che circondava tutto, no? E questo ovviamente non solo non succede più, ma è chiaramente un po' scientemente studiata questa cosa che non succede più, però alla fine è proprio la capacità delle persone di non riuscire non solo a fare un pensiero analitico e critico e l'analfabetismo funzionale, tutto quello che volete, ma proprio la percentuale di questa di questo impatto, no? Di questa stupidità galoppante, tanto da non rendersi conto anche delle cose più basilari, cioè le cose proprio più sceme, che alla fine uno sta lì e dice vabbè, ma come fa? Cioè, vedi una cosa e dici come può essere che la gente non si rende conto di questo fatto? Come può essere che non si rendono conto di questo piuttosto che di quell'altro? Evidentemente poi alla fine, appunto, diciamo che cioè stai lì e ti dici no vabbè, ma questa succede perché ci hanno un po' portato, no, da questo punto di vista. Poi dopo affrontiamo anche un altro tema, perché poi c'è tutto questo insieme di cose che sono successe e che purtroppo poi, saltando la puntata del Grande Reset, in qualche maniera alla fine mi si sono un po' accumulati i temi, no? Perché poi il titolo pecore, perché poi alla fine cioè la gente si è istupidita abbastanza da essere tutti impecoronati, stanno tutti quanti lì, che da una parte è un atteggiamento di deresponsabilizzazione, cioè sono tutti, come ti posso dire, stanno tranquilli, seduti, a aspettare che qualcuno decida per loro, perché decidere è comunque un esercizio impegnativo, stai lì, devi ragionare, fa un pensiero, invece no, c'ha ragione la Melone, smenamela gli neger, così, e questo è poi nel succo, no? Tant'è che poi c'è, nella stupidità c'è pure la iperpolarizzazione, non c'è più la gente che si rende conto del bene o il male, o comunque tutte le sfumature che ci stanno da un certo punto di vista, come quando c'è stata l'invasione della Russia in Ucraina, tutti con le bandiere dell'Ucraina, però nessuno oggi, ai miei tempi era diverso, nessuno oggi si preoccupa del fatto che 40-50 mila persone sono state completamente sterminate, che oggi a dirlo non fa manco più effetto, e questo forse è il grande problema, perché non fa proprio neanche più effetto a dirlo, sono 50 mila persone che non esistono più, che sono morte male sotto le macerie, sotto le bombe, spappolati, dinaliati, sfragnati in 100 pezzi. Non te fa proprio più effetto sta cosa, cioè non te ne frega proprio più un cazzo, la gente se ne frega il cazzo, fino a che non gli tocca a loro, fino a che non gli fai la multa al figlio, perché poi ha fatto la multa figlio mio, ma come ti ha permesso che lui può fare quello che cazzo gli pare? E questo è purtroppo un po' il discorso. Quindi se io oggi mi fossi svegliato dal coma, avrei detto Aria, mandatevi in coma subito, tenetevi le vostre tecnologie, le vostre cose super avanzate, le cose fighissime che si possono fare oggi, tenetevi tutto, rimandatevi in coma, a me lasciatemi stare, perché preferisco rimanere in coma, incastrato nella mia mente, imprigionato a sognare un mondo che era diverso da questo, e che la gente non solo non faceva e non pensava certe determinate cose, ma la politica, le nazioni, la comunità internazionale non si sarebbe mai neanche immaginata di mettersi a fare determinate cose e pensare pure che va bene, in fondo è giusto così. Ammazza che merda sta canzone. Lei è il Jay, che avrebbe potuto stare tranquillamente in uno di quei telefilmetti americani, no? Quelli che ci sono, quelli romantici che stanno lì e insomma succedono cose, ogni tanto si inframezzano queste scene con tante dissolvenze, con queste canzoncine così. Comunque, veniamo un po' al dunque, perché io che so quello che si deve incazzare, sto cercando di fare tutto per non incazzarmi, ma tanto prima o poi io lo so che ci stiro le zampe da questa cosa. Sarebbe bello, una bella stirata di zampe in diretta, no? Cioè, no, perché sapete, e rimane lo stream acceso, bello, veramente. E poi torna Michela con lo stream acceso, addio, madonna che scena. Ciao gatto. Allora, accendo YouTube un giorno e vedo una cosa, ragazzi, che cioè mi so veramente preoccupato a un certo punto, perché non ne parlava nessuno. Allora dico, boh, l'ho vista solo io. Allora, dato che io seguo tanti contenuti, anche criticamente, riguardanti l'intelligenza artificiale, boh, secondo me era tipo qualcuno che aveva fatto uno scherzo. Pensavo che erano... veramente per un attimo ho pensato che era uno scherzo, e mi sarebbe piaciuto, cioè più che altro era un pensiero, un retropensiero mio che diceva no, è uno scherzo, Simone, è uno scherzo, non bestemmiare, stai sereno, non ti incazzare perché qualcuno ha fatto uno scherzo di pessimo gusto, magari difficile da comprendere, ma è uno scherzo, perché a un certo punto è apparso sto spot. Tra l'altro la prima volta che l'ho visto faceva anche un po' più schifo, la volta dopo l'hanno perfezionato. Allora, la prima volta faceva un po' schifo, era fatto un po' tecnicamente un po' male, quindi ho detto vabbè, cioè non poteva essere una cosa seria, cioè non ci poteva stare, non rientrava proprio nella mia logica, perché io appunto faccio ancora parte di quelle persone della mia generazione che ancora si inorridiscono quando vedono certe cose, che hanno ancora la capacità di stupirsi anche in negativo di quello che succede, no? E poi la volta successiva l'ho vista sempre la stessa cosa, però era fatta molto meglio. E io l'ho segnalata a Google, ma voi dite, ma di che stai a parlare? Sto a parlare di uno spot, ragazzi. Poi mi è stato spiegato che Israele ci ha speso i miliardi per sta cosa. I miliardi nostri, ragazzi, sia chiaro, perché comunque alla fine tutte queste guerre, tutti sti cazzi e mazzi che vanno avanti, ma tanto alla fine ma chi le paga? Ce le pagano noi, cittadini occidentali, europei, e che stiamo sempre lì in mezzo come i coglioni, che siccome che volevamo far vedere che siamo istituzionalmente maturi, prendiamo posizioni morali noi, no? Noi siamo quelli che brutta la Russia, brava Israele! Che poi, se la Russia è brutta, Israele che cazzo è? Perché famosa a capisse, però mo ci arriviamo. Vedo questo spot incredibile, che... No, raga, io veramente sono rimasto basito, perché non riesco neanche a raccontarvelo, perché ve lo volevo far sentire, poi ho detto no, non gliela do sta soddisfazione. Però non riesco a raccontarvelo, perché ancora oggi non mi capacito. Ma non è che non mi capacito che Israele abbia fatto uno spot del genere, perché c'è sta e fa parte proprio della loro cultura. Noi viviamo la sindrome di Aronne Piperno. Noi ci hanno costruito per 70 anni l'immagine di Aronne Piperno, dell'ebreuccio che fa tutto il bravo lavoro suo e che però purtroppo è vittima della società, perché la società lo tratta male, non lo paga e lui è costretto a far causa. Aronne Piperno. Ma io c'ho il conticino, capito? Quello è l'immagine costruita ad arte per decenni da parte del cinema, della cultura, del cinema industriale americano, da parte di tutti, che tu vedevi sempre, no, cioè, sai, facevano i film sui campi di sterminio, grazie al cazzo, però poi alla fine sempre st'ebreo dei quartiere che stava lì, poraccio, e tutti lo trattavano male, e lui no, perché lui sempre con sto sguardo un po' contrito, ma perché il mondo mi odia, io sono semplicemente un povero ebreo. Questa è l'immagine che ci hanno costruito. Questa propaganda che va avanti da 70 anni alla fine porta Israele a propagandare qualsiasi cosa indiscriminatamente, tutto a favore suo, distorcendo la realtà come fanno in tanti, come si fa nel mondo del marketing, ma qui in un contesto istituzionale e sociopolitico importante, anzi geopolitico importante. Perché sto spot poi fondamentalmente che diceva? Diceva che Israele è il grande cuore di Israele, che stava portando milioni di aiuti umanitari a migliaia di persone in difficoltà, portando viveri, pacchi e via dicendo. E c'erano queste immagini di questo esercito israeliano che correva con queste carovane piene di pacchi e di alimenti e via dicendo, e li portavano ovviamente ai palestinesi. E i palestinesi, ragazzi, cioè questo è Marco Gualdi dice di no. Per me è roba fatta con l'intelligenza artificiale, perché secondo me neanche nella più distopica delle fantasie gli sarebbe venuto in mente di fare una cosa del genere. Cioè, secondo me anche il più oltranzista regista pubblicitario pro-Israele avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché ci saranno sti palestinesi che prendono sti pacchi e ballano e sono felici, ridono fra di loro. Ce n'è uno proprio col pacco in mano che saltella. Cioè, porco, mannaggia il... Non si può, cioè non si può. capito? Cioè è una cosa che non riesco a accettarla, sta cosa è una cosa proprio più forte di me. Ma non è il fatto di averlo fatto e di averlo pubblicizzato, l'altro l'ho segnalato a Google e Google subito, vabbè, ma d'altronde Google ci ha presi i miliardi su sta cosa, cioè figurati altro, no? E risponde: no, noi abbiamo ricevuto la tua segnalazione, ma abbiamo valutato che il contenuto è adeguato, non risponde a questo, non risponde a quell'altro. Cioè, vabbè, ma anche se fosse stato, non l'avrebbero cancellato mai, neanche nella vita, no? Comunque, perché poi sicuramente saranno arrivate altre segnalazioni, no? Ma la cosa che a me mi fa veramente incazzare non è il fatto che c'è questo spot che dice cose che dice, che veramente è un becero incredibile. La cosa che mi fa incazzare è che la gente non si pone neanche il dubbio che sia una stronzata. Vedi, però hai visto Israele, sono tutte stronzate quelle che dicono. Ma no, ma tu non te lo sei mai domandato perché Israele sta a portare gli aiuti umanitari? Ammesso che sia vero e non è vero, perché stava a parlare di uno Stato, di uno Stato che da decisione governativa sparava coi cecchini alla gente che andava a prendere la farina, che andava ai ragazzini che andavano a prendere il pane, sparava alle persone che avevano bisogno degli aiuti umanitari. Stiamo parlando di gente che spacca, esplode, fa bombarda gli ospedali. Stiamo a parlare dei criminali di guerra, dei genocidi nazisti, pezzi di merda, criminali, perché questo stiamo a parlare, che te fanno uno spot del genere e nessuno si pone il problema se quello è vero o no. Cioè dicono: ah, visto, però che bravo. Sì, ma perché se fosse vero gli portano gli aiuti umanitari in Palestina? Ma te lo sei mai chiesto? Vabbè, 70 anni di propaganda e 70 anni di guerra di protezione, perché comunque ricordiamoci sempre che Israele da 70 anni applica questa politica, quella di invadere o ad attaccare gli stati limitrofi per cercare di costruirsi il perimetro di sicurezza intorno. Questa paranoia psicopatica che ci hanno sempre avuto, ma ce l'hanno anche perché ricordiamoci che Israele non è uno stato che gli ha assegnato l'ONU, è lo stato che gli ha dato Dio, e quindi giustamente loro dicono: oh, io devo difendere, ma ha dato Dio. Poi se dovesse incazzare Dio, cioè, lasciamo perdere, insomma, non si fa incazzare un Dio perché potrebbe anche sentirsi a male. Poi ce l'ha dato a noi, dobbiamo essere, ci sentiamo privilegiati di questo grande onore che ci ha fatto il Signor Dio, che ci ha dato la terra di Israele, insomma, no? E quindi loro praticamente per 70 anni ogni tanto avevano le proprie scaramucce, rompevano il cazzo a destra e a manca, però ovviamente prima c'era una comunità internazionale forte dove si dava valore comunque alle istituzioni internazionali che si erano costruite, e quindi più o meno la tenevano a bada. Negli ultimi 10 anni c'è stato uno sbrago, la politica non esiste più, non esiste proprio più un concetto morale, etico della politica, oramai esiste solo ed esclusivamente la finanza, i soldi, e tutti questi politici che voi scegliete, tipo la Meloni, che vi pensate che abbiano delle idee dentro, in realtà non sono nient'altro che dei fantocci di un meccanismo al quale ovviamente rispondono, basta che gli fanno spendere i soldi. E infatti che è successo quando è arrivata gente come la Meloni, nonostante tutte le promesse populiste, ideologiche e fasciste che aveva fatto? Ovviamente ha aumentato tutte le spese accessorie che non ci servono un cazzo a noi come cittadini, e ha distrutto ulteriormente quello che è la cultura, la scuola e ovviamente la sanità, che già era insomma nella merda più totale, chiaramente, perché ovviamente oggi poi si spinge molto. Poi una volta ne parliamo di questa cosa della privatizzazione, no? Degli ospedali pubblici, del fatto che una volta per legge un medico, un primario, un professore non poteva fare il pubblico e il privato, poi magari in qualche maniera lo faceva anche, ma che adesso ti fanno il privato dentro l'ospedale pubblico è una cosa, ragazzi, che lì per lì, quando te l'hanno venduta sta cosa, te l'hanno venduta pure come una cosa, però vedi, tu paghi di più, paghi 60 euro, però poi c'hai subito l'appuntamento. Ma che è sta merda? Cioè, concettualmente, che è sta merda? Vabbè, comunque, dai, poi ne parleremo di sta roba, perché anche di questo bisogna parlare. E comunque, poi alla fine, la riflessione, al di là di appunto oggi che tutto è un po' caduto, non c'è più nessun principio, non c'è più che altro nessun freno inibitore da questo punto di vista. Nessuno ha più un senso morale delle cose e quindi ognuno fa quello che cazzo gli pare, no? La Russia appunto invade l'Ucraina, Israele bombarda a destra a manca, fa quello che cazzo gli pare, in Africa succede quello che succede e via dicendo, insomma. E questo poi alla fine fa un po'. Però ripensando un po' allo spot e alle pecore che siamo diventati e agli arrosticini che diventeremo, perché è giusto che sia così. Cioè la gente, se oggi poi decadrà tutta una serie di presupposti, no? Di cose sulle quali abbiamo lottato, lo diciamo da 20 anni, ragazzi, che tanto la fine sarebbe stata quella, e infatti alla fine la fine sarà quella. Quando tu distruggi tu stesso, distruggi i principi etici e i principi politici e i diritti che ti sei costruito, ma tu che cazzo pretendi che possa succedere, se non ovviamente che quel residuo di politica che ha soltanto bisogno di potere non prenda poi il sopravvento e ti schiacci definitivamente, e diventeremo degli arrosticini del cazzo, ed è giusto così. E i vostri figli saranno chiusi dentro delle stanze e gli faranno bere tanto olio verde ricino fino a che non cagheranno le budella, perché questo è quello che succederà ed è quello che è giusto che succeda, perché è giusto che succeda. E mi domandavo, alla fine facevo una riflessione un po' fra me e me, pensando sempre allo spot di Israele, ma se questa tecnologia ce l'avessero avuta, questa tecnologia di propaganda, no? Vista la forte propaganda che ha fatto comunque la Germania nazista anche internamente, no? Perché poi alla fine ci si arriva, no? Che un po' perché è meglio che gli dai retta, se no te sdraiano. Un po' perché comunque secondo me la gente si era anche convinta che quella era un po' la soluzione, che era la via. Ma se tu, un'organizzazione come la Germania nazista, con quella forte propaganda, ci avesse avuto la tecnologia di oggi, che cazzo avrebbe fatto? Poi mi rispondo da solo, ma è la Germania nazista, la sta usando oggi questa tecnologia? Ed è Israele, e questo discorso che noi continuiamo a fare, che loro sono finiti a diventare esattamente come sono diventati i loro carnefici, e qui dovremmo portarci a fare una miriade di considerazioni storiche che è meglio che non famo, perché sennò poi dimo cose che è meglio che non dimo. Tanto già pure quello che ho detto, meno male che non ci ascolta nessuno, perché sennò per me prima o poi qualcuno viene a dar fuoco a casa. Cioè, ce l'hanno già sta propaganda. E io a volte mi domando, cioè, questa tecnologia la utilizzano, la mettono in pratica e funziona, perché la gente tra uno scroll e l'altro di TikTok, dopo ovviamente che la nostra capacità di concentrazione è pari a quella di 15 secondi, tra uno scroll e l'altro appare questa cosa dei palestinesi con i pacchi in mano che ballano Israele, l'amore di Israele, milioni di aiuti umanitari, l'esercito direttamente, loro non hanno aperto il canale umano, ma proprio loro portano il cibo alle persone in difficoltà sulla striscia di Gaza. E la gente dice, ah, vedi, bravi, che carini, poi tutto sommato sono molto cute questi israeliani, no? E quindi alla fine questo è quello che succede, ed è quello che succede anche perché dobbiamo fare un attimo mi permetto di dire una cosa, dato che poi alla fine non ci sono andato più in onda su questa questione del referendum. Ragazzi, la questione del referendum non è grave per le tematiche del referendum, che possono essere interessanti, riguardavano comunque aspetti importanti, però va bene, cioè nel senso magari non fregava un cazzo, ma l'accettare la propaganda antireferendaria di un governo istituzionale che dovrebbe rappresentare e difendere quella democrazia sulla quale è seduta sopra, e la gente che si va a pecoronare su questa cosa perché non capisce che se un politico ti dice di non andare a votare un referendum, non lo dice per il referendum, ma lo dice per l'istituzione del referendum. E questa cosa è di una gravità inaudita, è la fine definitiva. Non ci fosse ancora bisogno di una certificazione di una cosa che io dico oramai da un decennio, della fine della democrazia, che non esiste più. Ma non esiste più perché la democrazia stessa non esiste, in quanto non ti permettono di svolgere le tue funzioni democratiche, di avere una cultura democratica in grado di poter fare delle scelte piuttosto che altre, ma soprattutto perché noi stessi consapevolmente non abbiamo deciso di non accettare di andare, anzi di accettare, di andare a svolgere quella che è una funzione primaria, quella di esprimere una considerazione diretta su delle tematiche importanti. E anche se tu non sei d'accordo, una volta, ragazzi, comunque ci si andava a votare per principio, per educazione politica, per rispetto democratico e proprio per il fatto che tanta della gente che prima andava a votare ha sgorgato sangue da tutti i pori piuttosto di essere arrivato al traguardo di riuscire a svolgerlo quel voto, a metterla quella croce, a dare esecutivo un esercizio che è il fondamento di ogni democrazia occidentale. Vabbè ragazzi, quanto ho sudato, sto a sudare, prima io mi incazzo, mi agito, quindi alla fine ovviamente sudo. Però dai, per oggi penso che sia abbastanza, proprio perché sto sudando, proprio perché insomma alla fine questa dieta impegnativa, poi dico le cose brutte, non le voglio dire, perché in fondo poi alla fine neanche le penso, tutto sommato, però è vero che a volte ci portano a pensarlo, insomma. Comunque tra poco mando i file a Walter Sbano, così poi potrà produrre ovviamente la puntata di ieri sera numero 400. Questa sera vi ricordo che c'è Runtime by Night e domani sera, ragazzi, alle 23, lo so che non me ne cazzo, c'è la prima puntata di Knox in the Night. Ragazzi, lo so che molti di voi si incazzano perché dicono: ma basta con l'intelligenza artificiale, che schifo, stai consumando il mondo. Ma è giusto, io lo voglio consumare il mondo, lo voglio che bruci insieme a tutti quanti noi. Nel frattempo però mi diverto, almeno ho la soddisfazione di oh, però ho fatto quello che cazzo mi pare, a me non mi rompete i coglioni. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento a questa sera e poi con tutto il resto della programmazione di Runtime Radio durante l'arco della giornata. Tra poco, subito dopo il brano, ci sarà ovviamente la puntata speciale che abbiamo fatto insieme ad Alex e poi tutto il resto della programmazione qui sempre su runtimeradio.it, che a volte anche runtimeradio.com. ma immagino che poi con Walter cercheremo di dire a Carlo di, insomma, di mirorare bene questa cosa, perché insomma sarebbe carino anche averceli tutti e due, no? Che uno va su .com e .it, che ci siano lo stesso sito specchiato, però ovviamente che non sia solo su .com, perché oggi scrivo runtimeradio.it mi porta sul .com, insomma, esteticamente è una cosa che anche a me non è che mi ha fatto impazzire. No, Carlo è Carlo, lui dice: faccio io, ci penso io, ci penso io, poi fa le cose un po' tutte come gli pare. Detto questo, io sono Simone, questo è il Grande Reset, ragazzi, buon fine settimana a tutti, che inizierà insomma oggi pomeriggio, quindi statevi bene e soprattutto non posso dirlo.